23:35 minuti prima, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Mentre sotto di noi scorre l'ultimo lavoro di Pat e Colladino Goddam. Questa è Senti a me. Suoneranno a Onda Rossa Festa il 14 di giugno prossimo. Che tutta la festa della radio si terrà a Strike, ci andiamo a collegare fra qualche minuto proprio con i compagni e le compagne della cucina di Strike. Guarda, qui sono tutti i dottori, con la gazzetta in mano parcheggiati al bar. Ma de che parla se vuol sapere, muove l'orecchia ma per dire che c'è con la cronaca ancora non l'ha aperta nessuno. Te guardo in faccia e penso che ve faccio un favore, yeah. Ad imbriagamme per farvi sembra un po' migliore. Che non si arriva solo per ghiottini, per fare buffi e sbighe da morire. Ma io che parlo a fase non mi ascolta nessuno. Senti a me che se non vuoi capire, bella fa come te pare. Faccio sopravvivere nella city senza te. Magari solo un po', magari solo un po', sì. Carta o banco, ma ho perso il mio lavoro per una serie di, una serie gigantesca di guai. E cerco solo amore. Fai un tanta solo un po', magari solo un po', sì. Uno è tre, bene per me. Ho ancora un dente d'argento per ogni evenienza, ma come faccio a sopravvivere nella city senza te? Ancora pioggia bianca sulla Prenestina, ancora un contorno degli schiavi rinchiusi in una banda. Ma anche tu, come fagiani in una selva di volanti blu.